Con Fabrizio Arcuri, direttore della tredicesima edizione di Short Theater 2018, Provocare Realtà, dal 6 al 15 settembre in vari luoghi della città, La Pelanda, Teatro Argentina, Teatro India e Biblioteche di Roma. Fabrizio, ben trovato. Ben trovati a voi, eccoci. Ci presenti questa edizione? Questa edizione è un'edizione che si concentra soprattutto su tre temi principali che sono il desiderio, la speranza e in qualche maniera il futuro. È un'edizione che unisce una serie di riflessioni intorno a questi contenuti, intorno appunto all'idea di che cosa significa oggi progettare il futuro, oggi avere, coltivare delle speranze, e che significa oggi non accettare la paura come unico filtro per affrontare quello che non conosciamo. Io abbiamo deciso di chiamarlo provocare in realtà nel proprio senso più etimologico del termine, cioè generare in realtà, produrre del pensiero che aiuta a generare realtà e dunque in qualche maniera futuro. Come si caratterizzerà questa edizione? Come sarà strutturata, visti anche i diversi luoghi della città? Dunque, il cuore pulsante della manifestazione, come al solito, è la Belanda, in una cittadella della cultura contemporanea. Assistere naturalmente agli spettacoli, ma anche a tutti gli altri formati, filmati, installazioni e anche la del festival che riesce, diciamo così, in qualche maniera mettere in web contenuti paralleli in qualche maniera al programma della manifestazione. Noi abbiamo Roma, con cui facciamo Rombel, gala al Teatro Argentina, e invece l'altra collaborazione che pure abbiamo attivato da qualche anno con Roma Europa vede invece la presenza di Tim Hatchell e Ant Hampton, che invece propongono una performance che sarà fatta in alcune biblioteche che sono intorno al quartiere di Testaccio, e questo è un contenuto che condividiamo a Roma Europa Festival. L'anno scorso lo abbiamo fatto con i Rimini Protocol, quest'anno lo facciamo con Tim Hatchell, che è regista storico della compagnia Fawcett Entertainment di Londra e che non sono certo nuovi alla loro presenza, diciamo, a Roma. Quali sono le caratteristiche principali rispetto al teatro, ma anche alle altre discipline incluse? Beh, come sempre, il nostro festival si caratterizza per avere due principali linee che sono quella di non tenere in considerazione l'aspetto generazionale, per cui sono presenti nel festival artisti giovanissimi come appunto artisti assolutamente affermati. Quest'anno ad esempio c'è Marco Martinelli che presenta del Teatro delle Alpi, che presenta il suo film tratto da uno spettacolo storico sulla vita del premio Nobel per la pace tibetana, che ovviamente è diciamo così, un docufilm assolutamente, mi verrebbe da dire, insomma, da festival di cinema sostanzialmente, no? Per cui sicuramente è un artista riconosciuto che non ha bisogno di presentazione, insomma. Accanto a questo naturalmente invece ci sono dei giovanissimi che sono magari al loro primo spettacolo, quindi questa linea assolutamente, diciamo così, trasversale che non tiene in considerazione le generazioni, dall'altra parte c'è la linea trasversale invece che non tiene in considerazione i generi, quindi tutto quello che in qualche maniera, a partire da un mondo specifico che può essere il teatro, la danza, la musica o la videoarte, che sta a sconfinare e che annette gli altri linguaggi, sono sempre dei formati multilinguistici e multidisciplinari. Insomma, queste sono due caratteristiche che costituiscono l'identità del festival e della novità, diciamo così, rispetto agli altri anni. Di quest'anno è la presenza di un nuovo formato che si chiama Panorama Roma, che si svolgerà il 9 settembre, che invece è una particolare attenzione alla creatività romana e ospita 9 compagnie romane che presenteranno uno studio di circa mezz'ora ciascuna, e poi si apre una sorta di dibattito, conversazione con gli operatori, i militanti e artisti, per fare un punto sulla questione romana e sulla, non solo sulla creatività, ma anche sulle strategie da adottare in una città come Roma, che, come sappiamo, lentamente sta diventando sempre un po' più priva di luoghi di incontro, di confronto e di, appunto, di palestra, di allenamento e di condivisione. Come sarà strutturata ogni singola giornata rispetto anche agli orari e agli spazi? Ci sono dei blocchi di spettacoli? Ogni giorno Short Theater apre più o meno alle 18 e ci sono delle fisse che vanno avanti dalle 18 fino alle 24, come Little Fun Palace o come Leave the Kid Alone di Vico Quarto Mazzini, o appunto FIS, che è questa formula di radio web, però poi apre anche a dei live musicali della programmazione delle state. Ci sono gli spettacoli che si susseguono, ogni giorno ce ne sono circa 3, e ci sono alcuni appuntamenti che si svolgono in altre sedi e che partono sempre dalla Belanda, ma poi dopo bisogna, diciamo così, andarli a cercare in giro per il quartiere, Strasse Condend, accompagnati dagli spettatori in alcune zone del quartiere Testaccio, cioè l'uomo che cammina, che invece è una lunga passeggiata che inizia dalla Belanda e continua, diciamo così, per i quartieri di Roma, e poi naturalmente ci sono le biblioteche sì, e questi più o meno, diciamo, è l'organizzazione delle giornate, diciamo, il corpo degli spettacoli alla Belanda, e poi ci sono appunto queste performance invece che a partire dalla Belanda si snodano all'interno dei quartieri della città. Un bilancio, dato anche che siamo, rispetto anche alle 12 edizioni precedenti, rispetto all'identità che si è data, questo festival, come si è trasformato anche nel tempo? Beh, è un festival che si è posto sempre degli obiettivi, diciamo così, importanti, nel senso che abbiamo sempre cercato di, come dire, insomma, di essere un punto di riferimento, punto di riferimento per un certo tipo di arte performativa e un certo tipo di spettacolarità, e in qualche maniera, diciamo, in questi anni sicuramente siamo riusciti ad intercettare dei progetti della Comunità Europea che ci hanno fatto entrare all'interno di determinate reti che ci hanno permesso naturalmente di crescere e di essere all'altezza di tanti partner stranieri con cui a oggi collaboriamo. Quindi diciamo che naturalmente facciamo sempre il passo un pochino più grande della nostra gambe, e ogni anno cerchiamo, come dire, di raggiungere l'obiettivo prefisso e cercare di essere in qualche maniera appunto un punto di riferimento non solo nazionale ma anche europeo. Certo, dall'altra parte poi ovviamente senza perdere di vista dove siamo e quali sono le criticità del luogo in cui operiamo, ed è per questo che da quest'anno abbiamo attivato questo formato che si chiama appunto Panorama Roma, che è una lente di ingrandimento sulla creatività romana. Sì. In chiusura ci lasci tutti i riferimenti web per seguire la programmazione? Beh, intanto c'è la pagina Facebook dove naturalmente ci sono tutti gli aggiornamenti in tempo reale, ed è quella che consiglio di più, ed è appunto Short Theater. Mentre invece per gli approfondimenti e leggere meglio nelle maglie del programma, naturalmente si può consultare il sito che è www.shorttheater.org. Bene. Tutti i biglietti sono in prevendita su Viva Ticket, e da quest'anno c'è un abbonamento a tutta la manifestazione che si chiama Honeymoon, che si può acquistare fino al giorno prima che inizia il festival, che con 120 euro permette di vedere tutti gli spettacoli del festival a un prezzo davvero ridotto. Allora, ricordiamo la 13ª edizione di Short Theater Provocare Realtà dal 6 al 15 settembre alla Pelanda, ma poi anche al Teatro Argentina, all'India e alle biblioteche di Roma. Un saluto e un ringraziamento al direttore Fabrizio Arcuri. Fabrizio, un abbraccio in bocca al lupo, a risentirci presto.